Buongiorno, siamo in collegamento con Londra. E prima domanda che vogliamo fare alle compagne e compagni a Londra è se ci spiegano un po' il prossimo mese ci sarà il G8 a Londra, proprio in Inghilterra. Proprio in questi giorni Obama sta parlando con Cameron e i due punti all'ordine del giorno sono la Siria e il G8 proprio a Londra. Quindi evidentemente un G8 molto atteso, molto importante. Spiegateci voi che siete là, che cosa prevede e perché è stata scelta proprio Londra. Good morning. Yeah, the G8 is not in London, it's actually in the north of Ireland, in Fermanagh. Il G8 infatti non è in Londra, ma è nel nord dell'Irlanda. As in the past, the government has chosen the most remote and difficult to get to place to have the Come summit. nel passato i governi hanno scelto un posto molto distaccato e anche molto difficile da raggiungere. It's an interesting area, the north of Ireland. It's also an area in Fermanagh famous for resistance, with Irish Republicans have fought against the British state for a long time. È anche una zona interessante della zona dove il posto che hanno scelto per il G8 perché è una zona in cui nel passato c'è stata una resistenza molto forte delle persone, degli irlandesi contro il governo britannico. However, we decided in Britain that if the people in Ireland wanted to organise something against the G8 there, we would certainly support them, but it needed to be started by the local people in that area. Comunque, noi avevamo deciso di aspettare che le persone locali si decidessero o organizzassero qualcosa e partisse da loro l'organizzazione comunque della settimana, però non è successo e per questo abbiamo scelto un altro posto. Yeah, so I believe that there are people in Ireland organising events and demonstrations during the G8 in Dublin and in Belfast. Sono sicuro che ci sono persone che stanno organizzando delle manifestazioni degli eventi, delle iniziative a Dublino e a Belfast. So the G8 summit itself is on the 17th and the 18th of June. Il G8, le date del G8 sono quelle del 17 e del 18 giugno. But we decided to make a week of action and events in London the week before. Ma noi abbiamo deciso di organizzare una settimana di azioni la settimana prima, che è quella dall'8 alla 14, che So it will be from the 8th until the 14th of June sarà in appunto London. da quella dall'8 al 14 giugno. And then if people want to go to Ireland for the summit, they can go afterwards. E se la gente vuole poi andare durante il summit del G8, l'incontro del G8 in Irlanda, può anche andare là. I mean, for us, it was really important to do something where we are in London, not only to chase these world leaders to where they are, but to do something Per in noi Oslo. è comunque importante che si faccia qualcosa a Londra e non soltanto inseguire i leader, i capi del G8. Perché abbiamo scelto Londra come città e perché abbiamo scelto Londra come luogo simbolico anche per costruire una lotta? For us, London is a very important symbolic and organizing center for global capitalism. Londra è un centro molto importante e simbolico per il capitalismo globale. In the last few decades, the economy of Britain and of London has changed a lot. Negli ultimi decenni la situazione e l'economia di Londra è cambiata molto. Like all of Europe, yeah. come in tutta Europa. So with Thatcherism and neoliberalism there is no longer any industry, any production, any manufacturing in Britain. Con il periodo della Thatcher e il nuovo neoliberismo non ci sono più industrie che producono, quindi non c'è più prodotto interno lordo in Inghilterra. Because it's obviously much easier for companies to go and pay very very low wages in Bangladesh, in China to produce. Perché è molto più produttivo e molto più finanziariamente produttivo il fatto che le industrie vadano in paesi come il Bangladesh e pagano il lavoro molto molto basso. But London instead has become very much a financial hub and a hub of money, a center for money laundering for the rich of the whole world. Londra è diventata un centro molto molto importante per i soldi, ma anche per il riciclaggio di soldi. Ho domandato se ci può dire quali sono i target, quali sono i punti che si cerca, dove si concentrerà di più la lotta la settimana di azioni, e lui ha detto ok, allora parliamo un po' della settimana e di come la stiamo organizzando. Yes. So the idea is that we have on the 11th of June, Tuesday 11th of June, will be a big day of action. L'11 di giugno, sottolineatelo e magari lo segnate in agenda, ci sarà una giornata di azioni, una giornata importante di azioni. So that will be in the West End of London, in the center of London. E quella sarà nella parte ovest di Londra, però sempre nel centro, quindi nella parte centrale al centro di Londra, nella parte ovest al centro di Londra, che è Mayfair. Okay, that is Mayfair and Knightsbridge and Victoria. Is we call it the West End of London. It's the richest che part. Sono, queste sono i quartieri che saranno il posto in cui si organizzeranno la manifestazione. The 11 is the carnival, isn't yes, it? So that's the carnival. L'11 è il carnevale e appunto ha nominato specialmente tre zone in cui ci saranno le manifestazioni, che sono appunto Mayfair, Knightsbridge e Victoria. Ho domandato perché la parte ovest di Londra invece che piuttosto che la City, che è appunto dall'altra parte, è la parte est, che è la City è la parte dove ci sono tutte le banche e è la parte, l'area, la zona finanziaria di Londra. Because London really has two financial zones. One is the city, which is with all the big glass skyscrapers. Perché Londra ha due zone dove si concentra la parte finanziaria, la parte economica e finanziaria. Una è la city, appunto, quella che dicevo precedentemente. And the other is the West End, which is where. L'altra parte è la parte ovest, the West End, l'altra parte. And for us, there you have so many centers of power, but they are more secretive. They don't have big glass buildings. They have very discreet offices with no sign on the door. La differenza fra West End e la City è che nella parte ovest si concentra appunto tutta la parte finanziaria, ma non è una parte molto visibile come è la City. Nella City ci sono grandi palazzi e grandi insegne che appunto che fanno individuare de, banche e multinazionali, mentre dall'altra parte non ci sono grandi palazzi, ma ci sono appunto c'è una parte molto una facciata molto perbenista anche e non ci sono insegne, quindi è molto difficile anche riconoscere quali sono i target e So we have an area where you see lots of tourists walking around in the street, but they don't know that in the building next to them is like one of the world's biggest arms companies. C'è appunto è l'area in cui ci sono molti turisti in giro, però non sanno che il palazzo successivo è la sede di una multinazionale che produce armi. Or for example, a secret bank that is owned by the royal family of Saudi Arabia, something like this. Una banca segreta che appartiene ad una famiglia regale Saudi Arabia. Come si dice in italiano? Vabbè. So there is a map that has been made with 100 addresses of all of these secret banks, arms companies, mining companies, other places where the very rich of the world hang out. Potete vedere sul sito di Stop G8 che lo possiamo dire adesso, ma lo diremo anche alla fine dell'intervista, che è network23.org/StopG8, e c'è una mappa appunto con tutti i target e dove si possono individuare appunto tutti i target con le banche private, le multinazionali, le compagnie di armi. La cosa che principalmente le chiederei, oltre il programma, ok, quindi c'è la settimana di abitazioni, è il fatto che insomma l'ultima manifestazione importante a Londra ci sono stati 2 anni fa, che hanno portato anche a un'ondata di repressione. Sì, no, questo lo diciamo perché appunto molto. Durante la settimana stiamo organizzando diverse iniziative e si aprirà proprio la settimana. Il sabato 9 ci sarà un'iniziativa molto grande che adesso spiegheremo, che appunto si ricollega ai riot e anche a questi 2 anni che sono passati dopo i riot. The demonstrations. Okay, so on Tuesday 11th is the big carnival in the West End. Then on Wednesday the 12th, the next day, is a day of actions, an anti-militarist day of actions against ci the sarà, arms company. Ci sarà il 12, che è mercoledì, c'è un giorno di mobilitazioni contro le corporazioni, corporazioni, è un giorno antimilitarista, quindi ci saranno target contro le corporazioni che producono armi. Yeah, because London of course is also a big center for the selling and manufacturing of weapons, with companies from all over the world have offices in the center of London. Londra infatti è uno dei punti focali del mondiali in cui le grandi in cui ci sono industrie che producono armi. And then on Thursday is a day, No Borders, No Prisons Day, which will be a day of demonstrations in solidarity with prisoners, both in the regular criminal prison system and in immigration detention centers. E il 13 ci sarà una manifestazione che sarà contro i confini, il No Borders, contro le politiche dei confini e contro le prigioni, appunto in solidarietà con tutte e tutti coloro che sono dentro e fuori, dentro le prigioni, e che sia prigioni per immigrati che i carceri. And finally, on Friday, there is another action organized by some other groups at Canary Wharf, which is another financial center in the east of London. E venerdì 14 ci sarà un'altra giornata di azioni a Canary Wharf, che è appunto un altro centro di centro finanziario. And we also invite people to make their own actions autonomously throughout the week. E ovviamente invitiamo tutte e tutti coloro che vogliono partecipare alle azioni anche a organizzarsi e a fare azioni indipendentemente dalle cose grandi che stiamo organizzando. So as well as the actions, every at the weekend at the beginning, come anche le azioni. And all on every evening through the week will be talks and films, discussions. Oltre appunto alle azioni, alle organizzazioni di manifestazioni, stiamo organizzando una settimana di eventi e discussioni. We start with Sunday the 9th. So the idea on Sunday the 9th is we will have a discussion around Britain as a racist police state. L'evento, l'iniziativa che stiamo organizzando per domenica è appunto concentrata sul fatto che la Gran Bretagna, l'Inghilterra è uno stato razzista, uno stato che perpetua il razzismo istituzionalizzato. So we want to bring together people, campaign for families of people killed by the police. Vogliamo mettere appunto, stiamo cercando di mettere insieme famiglie, cioè c'è un'associazione che si chiama Famiglie che Family Against Death in Custody, no? Deaths in police custody. E c'è un'organizzazione che si chiama Famiglie contro le morti in stato di arresto, che appunto è un'organizzazione che nasce dall'esigenza di mettersi insieme per combattere le morti in stato di arresto, che sono una percentuale altissima qui a Londra. Also with people who have been resistance inside immigration detention centers. Con persone che hanno partecipato a diverse situazioni di resistenza all'interno dei CIE. And also the anti-raids campaign, which is a new network of people fighting against immigration controls and E un altro network che si chiama Anti-Raids, che appunto è contro i raids della polizia, che appunto si focalizza soltanto sull'immigrazione. E ci sono questi raid ogni settimana, ogni giorno, e hanno dei target particolari, luoghi di ritrovo soprattutto per migranti e luoghi di comunità, quindi si ritrovano soprattutto, si cercano soprattutto di reprimere comunità e persone. Io l'unica cosa ultima che vi volevo chiedere è il fatto che il 14, venerdì, invece verrà dedicata una giornata all'Italia. Sì. Certamente uno dei più importanti G8 che c'è stato è stato quello italiano. L'anno scorso ci sono state delle sentenze di Cassazione che hanno condannato per reato di devastazione e saccheggio appunto 10 persone, di cui due si trovano in carcere, altri due latitanti. Perché una giornata dedicata al G8 di Genova? Abbiamo deciso, come innanzitutto l'esigenza è venuta dai compagni e dalle compagne che vivono a Londra, cioè ovviamente parlando poi con i compagni londinesi ci siamo coordinati, abbiamo capito che non c'era nessuna, che non sapevano, che non c'era nessuna informazione, che durante questi 10 anni comunque si stava un po' dimenticando lo stato repressivo dello Stato italiano e di come appunto di come stava perseguitando alcuni compagni che poi appunto sono in carcere e a cui appunto volevamo dare uno spazio in particolare, innanzitutto per far sapere a tutti i compagni e le compagne che verranno in Inghilterra questa dare informazioni, ma dall'altra anche cercare di esprimere solidarietà e non lasciare questa cosa nel dimenticatoio. Quindi ovviamente la risposta da parte di tutti è stata molto molto accogliente, nel senso che hanno preso l'occasione per, abbiamo preso l'occasione per fare un'iniziativa e spiegare e spiegare appunto che cosa è avvenuto e dall'altra cercare di esprimere solidarietà anche in modo pratico. Quindi ci sarà un concerto che chiude il G8 qui a Londra dedicato appunto a Marina e Alberto e a cui appunto ci sarà un benefit, la parte dei soldi verrà dedicata a loro. E quindi appunto dedichiamo questo G8 in qualche modo a tutte le persone che hanno lottato in questi anni e che hanno subito la repressione dello Stato. Questo è quanto. E infatti venerdì 14 ci sarà un'iniziativa che è ancora da definire il posto, ma ci sarà un'iniziativa per quanto riguarda Genova. E poi un concerto dedicato a Marina ed Alberto. Love and solidarity to Fagiolino and Marina from everyone in London.